Sambar al no marar Marisa, a no nave, a no na mais. Dec se navos o novo, e sora com a no manás. Se navo um rec vat na no fufa, então raúd, então rahan. Eis com a no fusa de silva, fitiava com a no se relane. Ti tapa che rimanda la notte tu ande vacanze e un cantenna mi contiando con sorcia fuzzi ma ecco ci tiendri mamma nosa ritrele la tatuato Roma lemba lucato segni nambara nosa. Tiam pouco um baba te andanha nele, fana nele empteava na cara o diabi, cara o diabi, cara o diabi. Havanhei, fitiavanhei, e soranga nos angari ramai. Samaranye haravuti alano ambindavam zerato vavungano na wavuni hena ngovara azamis sangati kotinzara tikarara. Avo con nome tu, sin giorni raccia antena resen, fambam to, pie culava e, fisco a mia gatto na catia no re. Avo con no, fitiavo con no. Ava ne, fitiava ne, e sora la no. Take the andinyeseze agnanarkoanao dia ambalazeo fiarahany tsara fa misy moralena ka izy koa fa kajo ambela izy mandeha anjaranao tsy lany matoky isa valera olo koa efa tsy nahefa tsy andanianane raha haiko aminao miangagnanao fafany rano masonao moraly amboara vinira zahava zay rahay alalina eo masoandro bi raha ambariko anao mitsangananao ataovy lastisinao fagneva amboara soranao mpindana jery tsaranao kazariana ndeva zavare misy ny aly misy koa mazave fa madibadiky isanarany tsara ndraiky ratsy misy ny olombelono levina antany mbagnarivony any mety veta mare tsy zaho tsy anao azovy mahay adalagnano tondra damasiera olo jiaby samy magnefa raha haiko aminao miangagnanao fafany rano masonao moraly amboara venira zahava zay rahay halalina io masoandro bi mieritreritry ntena amy fiainana tiny tsy arofo tsy harary tsy tanteraka ty amy famiambiny ao korokobe natondragnahary izy mandatra izy magnanatra Vono mal tsara kurangatsika saim raring no tam nutan nangaria no wanzara sik sarin rana nino no smang tam komis simazab sarin rana nino no mangangu kara sustula Sari cara o tisvava, fitiava cono matunga zamauta, comandrer cano ambila. Na mi fola menis sinale, a un quandibuk isnale. Curanga tienis sinto hit Taring lam fangam nasa o itu kit Vai mek marazzi tieno na toco Vanno mal tsara curanga si Sai Ariano Anzarazzi Sari Rana Nino no Smauntan comisti Mazava Sari Rana Nino no Mangangu cara sustulava Sari Rana Nino no Lanzar cara uzisvava Avitiava cono matunga zamanta Quama sustru no ambila Ambara quano cecti Fasace ave che existi Ma manta nieno sari Bacchio manghi, mi tandregna val conosceri, sari, sari. Gida gida lavankan kan TV na miokura ni rose mai. Adianti kamal mal TV, manga mi sambara ni rohu titiya. Gidra gidra lavan kan kan TV, manga miokura ni rose mai. Adianti kamal mal TV, manga mi sambara ni rohu titiya. Basik zay. Panzar c'è i tang panganatra ampexei si tiennu luraku ampitabra fiarana talana diadi scuodi la luota ma hempa cavadi fiarana talana diadi ma sunul misa mi tora casasi fiarana tialana diadi squadi la luota ma hempa cavadi fiarana tialana diadi ma sunul misa mi tora casasi. Kono alnyanda tihi Mamparavra fondose mahita Basikze Rakwata panzar Tsaita mpanganda Ampikze Titi anu raku Ampitambacha Fiarana tialana diadi Dilla luota ma hempa cavati Fiarana tialana diadi Ma sunul misa mi tora casati Fiarana tialana diadi Scuodilla luota ma hempa cavati Fiarana tialana diadi Ma sunul misa mi tora casati. Masunul misa mitora kasazi Fiarana tialana diadi Skuadila luota ma hempa kavadi Fiarana tialana diadi Masunul misa mitora kasazi. Rosali no diab baluela be fare king tiav mangin due Tiano ma di stina in fidi fa fienga na didi ni amenga no funi no ingi enga no amzeng miampivagny tikindro malegna no amzeng tindriany karazagna jaly vovo titany tsiteky jentena fameky nahitanao medina tsy mety tsy mentsy magneky na tsy afaka mbava tsy rariny na raha jiaby atao tsisy varany niloso fa hefa tsy havany lagnienta velambonaman tsy anao zareky maregny marary fandalovany ratsy magnontany ro matoe volognandro tsy aroe efa zegny lalagna diavigny koa mahebe fa zegny raha iaretagna koa mba hatoe koa nagnindro e mbala mety agnintelo aravogna mandalo tsy regny koa tsisy alahelo anorangozy io torantagny mbalazy io fokoragniny fa tanty tsy voly mihodigny amzegny amzegny amzegny oh amzegny amzegny amzegny amzegny Mandreraka kitanu beki mareni Kola kola bungwa tiala tiveni Atova fufa nomba lami Mini minti maha keki maha leni Iskono ti mahe Timba tandringeza Fatali ndreke noza tina hefe Anoma nganu nganu Uluje abisahi Zana kamanzafi Mandi mandira Kakazo biu mampisi maleni Mbali uoku mampahavi tiku tiku Tiku madiu Anesi nomeni Anoma nitsiniti Vaki fipiko Karaza nyanga tialany Kotsina nyino anao kaza kotrany Maro tsina hita Mbala tiza Tsigasy karanao io tsivaza Tegna ndrano kaza siagna maloto Tsambevy tsamporiagna io fogahin'olo So mampanitry Ratsy fitomony Mampivarahonja Fiarahamony Setu kiumandera kaheni Uzon kwa tisa tika kirengu Mora mora faze hemba tihengu Ano mungu Fatsofa tihengu Dana tiri Bibi tani Atiala kubadi Rama chidi Unu mbamihe Bibi chivne Kakashu chitle Yala male, dan chiri, bibi tarni, atyala kubabi, ram chiri, unu mumihe, bibi chivne, kakaj chitve, atyala male, dan chiri, bibi tarni, atyala kubabi, ram chivne, unu mumihe, bibi chivne, kakaj chitve. Vava mila tataka Bieku vangu nu Ftiava no mi vavaka Mi vavaka, mi vavaka Tsari nzano Ke huza amno Zatse indri misi miyana Adana noia messa non in lanci. Fisco a samba io, bala mi si fè. Mi hira hira no fumama toku. Fisco a zampa marivo, no fumuoco vulamena. Toku itano Jerusalem. Fisco a samba io, bala mi si fè. Hira hira no tsumente toku. Fisco a zampa marivo, no fumuoco ratieno. Tani non a regni zanarare in bala mia mancia. Vieni con alle favare vuole canta cata un buon rato. Ti è di nuovo. Mangi che ti mangi che rie non ta di vola. Nico, se niente amare un signo si ne già povula, e nemmeno. Casa marà, la vicità, nindico, da tata no, tu mangi non govulani no, ti mochi vala mia sambira.